Salve cari amici, sono Stefania e sono insieme al nostro amico Giorgio di Radio Big World e insieme al popolo di Barabba, nostro malgrado. Oggi volevo esprimere alcuni pensieri e riflettere insieme a voi su un argomento abbastanza complesso che forse non sarò neanche in grado di esprimere al 100% e di farmi capire. Ci provo. Sto leggendo un libro che mi è stato consigliato da un caro professore. Si intitola Uno psichiatra nei lager, cioè trovare il senso alla vita nonostante tutto. In questo libro emerge, dal punto di vista dello psichiatra che racconta la sua storia nel lager di Auschwitz, non facendo la cronostoria di quello che è successo, che tra le righe si capisce, sono cose veramente, ormai le sappiamo tutti, almeno mi auguro e spero, terribili, ma lui analizza la cosa dal punto di vista psichiatrico, cioè le persone detenute nei lager, la loro reazione. Ed emerge, da quello che ho capito, che le persone che riescono non ad accettare, ma a contrastare quello che avveniva nei lager, reagendo nelle cose più strane ma anche le più personali, cioè volgendo l'idea e il pensiero ai loro cari, cercando di distrarsi da quell'orrore per quanto possibile potesse essere, erano le persone che riuscivano a resistere e, come è successo al fortunatissimo scrittore di questo libro, anche a rimanere vivo e quindi a poterci dare quella preziosissima testimonianza poi a noi. Quindi la psiche e il cervello dell'uomo quanto potenziale ha per poter fare veramente cose grandiose, al di là di qualsiasi aspettativa che noi esseri umani, guardandoci così negli occhi, non abbiamo, non pensiamo di avere queste potenzialità. Allora, il mio pensiero corre a quello che sta succedendo oggi nella nostra società, cioè nel nostro grande lager consumistico e lager interconnesso. Nei secoli abbiamo sempre avuto come esseri umani i nostri alti e bassi, le nostre cose complicate, le nostre cose difficili, e abbiamo sempre cercato di andare avanti e siamo arrivati a dei livelli davvero interessanti e importanti oggi. Però, ahimè, che cosa succede secondo me oggi? Che il nostro cervello si sta appiattendo. Cioè viviamo proprio nel lager dell'interconnessione, siamo tutti interconnessi, siamo tutti appiattiti di fronte alle proposte commerciali, di fronte a quello che ci stanno proponendo i nostri, non so, le persone che preposte a fare questo. E noi siamo in grado di reagire a tutto questo, siamo in grado di riuscire a pensare con il nostro cervello scevri da tutte queste interferenze. Io purtroppo non ho questa fiducia, ho speranza che qualcuno o noi stessi in primis possiamo fare qualcosa. La speranza c'è sicuramente e dobbiamo adoperarci perché questo appiattimento non vada oltre, però credo anche che facendo un'analisi del mio territorio, dei territori, anche leggendo e documentandomi di quello che sta accadendo nel resto del mondo, la cosa diventa veramente complicata, complessa, perché oggettivamente la stragrande maggioranza delle persone va dietro a questo filone di, come dire, mercificazione, senza avere più quello stimolo di creatività e quello stimolo critico nel pensare che probabilmente le cose non dovrebbero andare come stanno andando. Mi spiego, il nostro cervello è un muscolo e, essendo un muscolo, ha bisogno di essere alimentato, ha bisogno di essere allenato. Se nessuno lo allena con il pensiero, con l'osservazione, con la criticità, ma viene appiattito, andando dietro a tutto ciò che ci viene proposto, il nostro cervello si appiattisce, non siamo più in grado di, potrei dire, scegliere di essere critici, di non avere più la visione di dove stiamo andando, perché si va dietro ad una corrente che non è la nostra, inconsapevolmente, perché il nostro cervello non ha più quello stimolo, non reagisce più, è interconnesso. Questo a me un po' mi fa preoccupare, perché penso alle nuove generazioni, a quegli studenti, a quei ragazzi giovani, a quei bambini che sempre di più avranno questa strada spianata verso l'appiattimento, perché sempre più saranno interconnessi, sempre più avranno la relazione, se così si può dire, virgolettato, con gli strumenti elettronici. Quindi di relazione non ci sarà più niente, io la chiamo relazione, ma non è una relazione, la relazione è tra due o più persone che si confrontano tra di loro. In questo caso la relazione non esiste, c'è un pensiero, c'è una macchina, cioè c'è un pensiero, c'è un cervello, c'è una macchina, e questo cervello va dietro alla macchina, qualunque cosa questa macchina proponga, perché peraltro, sentendo alcuni bambini, mi viene detto: ma l'ho visto sul computer ed è giusto. E questo è un aspetto particolarmente complesso e particolarmente preoccupante. E io mi chiedo, ma non, cioè, come si fa a non preoccuparsi, a non vederle queste cose, che sono cose di tutti i giorni, elementari, bambini che stanno dalla mattina alla sera al computer facendo quei giochi alienanti, e che domani non sapranno dire: io voglio questo, io voglio quell'altro, perché quello che lui non vuole, quello che lui vuole, gli viene imposto da altri. Oddio, mi sono addentrata in un argomento davvero incredibilmente complesso. Spero di essere stata chiara. Per concludere, vi volevo dire quanto siamo stupidi, sciocchi e incredibilmente maleducati e criminali, sempre pensando ai cervelli alienati che non pensano alle loro azioni. Nel fiume dove abito, c'è un piccolo fiume, ho trovato un sacco buttato là nel fiume, semi aperto, e dentro c'era di tutto: bottigliette di plastica, bottiglie di vetro, cose di involucri di patatine. Per fortuna c'era anche il foglio di gradimento di un agriturismo vicino, con il nome e cognome della persona che aveva ospitato questo agriturismo. Ecco, mi sto muovendo affinché questa persona, anche se americana, perché è una persona americana, non la passi liscia, perché questa è una di quelle persone che non pensa a quello che fa. Magari si è fermata a vedere il nostro bellissimo panorama, perché da lì si gode un panorama davvero incredibile, e ha pensato bene di deturparlo con la sua monnezza. Ecco, io mi chiedo, ma che razza di cervello funzionante ha questa persona? Scusa, ma su questo io non transigo, sono davvero, davvero tanto indignata per questi atteggiamenti. Sarebbe importante, sicuramente vado a fondo su questa cosa, stesse anche non in America ma in Alaska. Non so quanto la legge possa essere dalla nostra parte, non lo so, probabilmente andrà così perduta, però questa persona deve sapere che è stata individuata a fare una cosa che probabilmente al paese suo non avrebbe mai fatto, però da noi si è sentita autorizzata a farlo, cervello alienato e non pensante. E con questo vi saluto, è stata una conversazione un po' pesante, lo riconosco, però avevo bisogno di parlarne con voi. Grazie e alla prossima.